Ecco, io prima di tutto devo precisare che il titolo è leggermente modificato, nel senso che dei due autori che erano stati annunciati, in realtà è solo il Manzoni quello che è oggetto della mia relazione. Michele è scomparso. Direi che questo è un po' frutto di una mia ingenuità, perché quando ho dato il titolo a Schiera, ecco, pensavo che potesse essere interessante accomunare a un autore cattolico, un autore laico, comunque non cattolico come Michelet. Certo, l'ipotesi era suggestiva, però poi quando mi sono trovato a stendere la relazione mi sono accorto che era molto ingenuo pensare di poter trattare in un'ora di due autori così grossi contemporaneamente. Quindi vale il titolo detto, salvo che parlo solo di Manzoni. Manzoni basta e avanza, state tranquilli. Voglio dire anche che questa è una prima stesura, perché è in fondo un terreno di ricerca nuovo, è un tentativo in qualche modo di affrontare un testo letterario da un angolo visuale storico e su un tema anche una prospettiva un po' inconsueta. Quindi certamente si tratta di un tentativo, il mio, non credo che questa sia la realizzazione definitiva e pertanto sono molto lieto di poter discutere. È un po' una presentazione a titolo sperimentale, qui quella che faccio oggi, di questa relazione e spero che attraverso la discussione mi vengano forniti elementi per poter riscrivere, ritoccare, migliorare o correggere questa relazione. Naturalmente appunto per la stesura definitiva che dovrà essere fatta per gli atti. Credo anche che sia utile che premetta qualche considerazione di metodo, perché in effetti si tratta di un approccio non consueto, perché appunto dicevo si tratta di una lettura fatta da uno storico del Manzoni romanziere. Tengo a precisare che non si tratta quindi di un giudizio su Manzoni storico, anche se è inevitabile che sia coinvolto un giudizio su Manzoni storico, cioè che ci si debba domandare che valore storico abbiano le pagine del romanzo. Comunque si tratta di una valutazione in termini più complessi di quelli che si riducono semplicemente a verificare la validità del noto giudizio di Croce sul Manzoni come uno storico sviato. E, ripeto, intendo limitarmi al romanzo. Sappiamo benissimo anche dalla discussione di ieri l'altro che Manzoni non è stato soltanto romanziere. In termini di analisi più strettamente storica ci sono altri scritti, tra cui quello soprattutto sulla Rivoluzione francese, di cui abbiamo parlato, e su cui c'è uno stimolante lavoro di Luca Mannori, che è stato così gentile da darmi ieri e che io ho letto soltanto ieri e che credo che possa essere considerato molto interessante se si vuole analizzare il Manzoni saggista di questo saggio senile, poi pubblicato postumo come si è visto. E, posso dire così a titolo soltanto di accenno, perché su questo appunto non mi voglio soffermare, che di questo interessante lavoro di Mannori condivido molte cose, altre non ne condivido. Vorrei dire che condivido in particolare alcuni giudizi che dà a proposito del Manzoni, del saggio sulla Rivoluzione francese, quando dice, mi permetto di citarlo, chi vuole può rammaricarsi che Manzoni, assieme a tanti suoi contemporanei, non abbia prediletto una storia critica alla Tocqueville invece di seguire l'esempio di Thiers. Ma di sicuro non potrà considerarlo una mosca bianca nel panorama culturale dell'Ottocento. Padronissimo di negare al suo contributo la qualifica di storiografico, per classificarlo invece tra i racconti storico-saggistici, per coerenza egli dovrebbe definire allo stesso modo il 90% della produzione ottocentesca avente ad oggetto la Rivoluzione francese. Questo per dire appunto che condivido il giudizio di Mannori che certo sottolinea i limiti del Manzoni di questo saggio, anche limiti metodologici, però nello stesso momento è capace di notare che in fondo questi limiti si trovavano molto spesso anche negli storici di professione dell'Ottocento. Però ripeto, questo non è l'oggetto della mia analisi. Io intendo limitarmi al romanzo. E lo dico soltanto per i borsisti, gli gli amici borsisti tedeschi che non hanno studiato fin da bambini il Manzoni come capita a noi italiani, fino a che appunto non ci viene in uggia, ahimè, per sfortuna del Manzoni, perché forse non lo sanno, il destino del Manzoni è stato veramente sfortunato, perché dopo essere stato osteggiato per buona parte dell'Ottocento, soprattutto dal mondo cattolico, dopo invece è stato assunto come modello di scrittore cattolico, come un modello apologetico, è diventato il nostro Manzoni. La scuola ha fatto altrettanto, per cui a un certo punto è diventato il padre della letteratura italiana e il padre del bello scrivere, e quindi tutti noi abbiamo dovuto, fin dalla scuola media inferiore o dal ginnasio, studiarci il Manzoni, ma non soltanto studiarlo come romanziere, ma come maestro di bello scrivere. Qui ci abbiamo fatto l'analisi grammaticale, l'analisi sintattica, e quindi tutto ha cooperato per farcelo odiare. E allora voglio dire che, mentre loro non, i tedeschi evidentemente non hanno avuto questa sorte, probabilmente anche mancano di alcuni punti di riferimento essenziali, dico così in maniera estremamente sommaria per far capire loro anche alcuni accenni che farò nel corso della mia relazione. Il romanzo ha avuto una relazione lunghissima e molto travagliata, ma soprattutto due momenti fondamentali. Il primo momento si è identificato nel titolo di Fermo e Lucia, è stata la prima stesura, compiuta tra il 1821 e il 1923, poi c'è stata tutta una lunga rielaborazione, per cui si è approdati alla prima vera e propria edizione del romanzo con un titolo diverso, I Promessi Sposi, nel 1827. Poi c'è stata ancora un'altra rielaborazione molto lunga che ha portato all'edizione definitiva del 1840. Infatti i critici letterari parlano della ventisettana e del 40, tu sei il critico letterario qua che mi osserva, quarantana. Quindi questo per dire che sentirete parlare del Fermo e Lucia e dei Promessi Sposi, capite, è sostanzialmente lo stesso romanzo, però in redazioni e in gestazioni diverse. Allora, qui capisco che vi rubo un po' di tempo, ma credo inevitabile, devo fare qualche considerazione di metodo. In che consiste, secondo me, una lettura fatta da storico del Manzoni romanziere, ripeto, solo del Manzoni romanziere? In primo luogo, una lettura di questo tipo serve a collocare storicamente il Manzoni. E in questo la formula del seminario ci è molto utile, perché appunto noi abbiamo svolgiamo un lavoro per cui guardiamo dall'Ottocento l'età moderna. E quindi ci serve capire come Manzoni sia uomo dell'Ottocento, uomo del suo tempo, con le sue tensioni ideali, con le sue caratteristiche ideologiche, con le sue convinzioni e anche con i suoi limiti. E quindi il Manzoni, il modo di leggere il Seicento, è tipico di un uomo dell'Ottocento e di un certo orientamento dell'Ottocento. Per cui certo noi non possiamo accettare, tout court, la rappresentazione che Manzoni dà del Seicento, senza tradurla nelle nostre categorie storiografiche, che può comportare anche una traduzione di termini. Come noterete nel mio titolo non si parla di Seicento, ma si parla di età della, o meglio, di società della Controriforma. È già questo segno di una traduzione. Il Seicento manzoniano noi non lo possiamo accettare anche come categoria storiografica tale quale. Noi dobbiamo tradurlo. In qualche modo qui direi che seguo, o meglio, ho seguito ante litteram, un'indicazione che avevo un'esigenza che aveva prospettato qua ieri l'altro Giarrizzo, quando diceva: beh, in fondo non dobbiamo parlare del Seicento, dobbiamo parlare di tre secoli. Ecco, in fondo il Seicento non è altro che la quintessenza di un periodo storico più lungo, a cui noi diamo però non solo un'altra valutazione, ma anche un'altra definizione terminologica. Resta il fatto che è pur sempre un dato storico il modo con cui nell'Ottocento si guardava al Seicento. E questo è un primo elemento di interesse per chi voglia fare una lettura da storico del romanzo. In secondo luogo, una lettura di questo tipo serve a valutare in che modo l'artista, e sottolineo la parola artista, ha ricreato un momento storico, ben inteso, con strumenti diversi da quelli dello storico. E questo è il punto decisivo, a mio giudizio. Ci troviamo di fronte a una verità storica trasmessa artisticamente. E credo che sia opportuno, specialmente di fronte a certe critiche come quelle crociane nei confronti di Manzoni, storico sviato, ricordarsi che il fine primo e peculiare di un romanzo non è l'aderenza rigorosa alla realtà storica, ma la creazione artistica. La fantasia rievocativa può avere la capacità di cogliere e di farci gustare il clima di un'epoca in modo emotivo o intuitivo, anche se non c'è piena aderenza ai particolari della realtà storica. Evidentemente ci possono essere delle pagine meno vere dal punto di vista storico, eppure riuscitissime da quello artistico, e viceversa, cioè pagine artisticamente modeste ma utili per la narrazione storica. In questo io cercherò di dare qualche esempio nel corso della relazione, proprio studiando il passaggio dal Fermilucia al Funesto. Ma soprattutto bisogna tener conto che il modo che un artista ha di trasmetterci la sua percezione del mondo e della realtà storica è diversa da quella dello storico. Mi permetterei di fare un esempio forse un po' banale, ma mi pare abbastanza illuminante. Passando alle arti figurative, ho in mente il David di Michelangelo. Tutti voi avete visto David di Michelangelo e avete ricordato che c'è questa mano enorme, questa destra, che è la destra con cui David ha scagliato la fionda, con cui ha ucciso Saul, che è certamente sproporzionata, non rispecchia le proporzioni del corpo e non è uguale all'altra mano. Ecco. Sarebbe assurdo criticare Michelangelo perché non ha rispettato le esatte proporzioni anatomiche del corpo umano, o considerarlo uno studioso di anatomia sviato. La mano del David non è soltanto una licenza poetica, ma il modo artistico di farci percepire ciò che è avvenuto secondo il racconto biblico, cioè ci dà, proprio attraverso questa sproporzione, l'idea, l'immagine, in termini artistici, di un evento storico, cioè di questo ragazzo che proprio con la forza della sua mano ha ucciso un gigante. E quindi in qualche modo c'è una verità storica, sia pure trasmessa artisticamente. Questo travasato, diciamo, nel romanzo dei Promessi Sposi, mi pare che si possa applicare a molti casi. Mi viene in mente, visto che lo tratto qua nella mia relazione, al caso alla vicenda della monacazione forzata di Geltrude, e in particolare alla narrazione dell'atteggiamento del padre, che è una narrazione, secondo me, incalzante, quasi da incubo, in cui ci si mostra un padre che, prendendo pretesto da una piccola defiance della figlia, cioè da questa lettera al paggio, e dal suo pentimento, la incastra, ecco, in maniera ossessiva e rapidissima, fino a condurla nel giro di 24 ore praticamente al monastero. Ora, non so se regge questo discorso, ma mi veniva un po' il fatto di fare questa osservazione. Se io dovessi immaginare davvero una realtà quotidiana, in fondo, della storia del quotidiano, una rievocazione di un piccolo episodio di questo genere, che evidentemente si è verificato in mille situazioni, perché sapete che le monacazioni forzate ci sono state come. Io credo che difficilmente un padre si sia comportato con questa abilità diabolica, starei per dire, con questa incalzante ipocrisia, che denota proprio una enorme capacità proprio di coartare la coscienza della figlia. Ecco. Probabilmente, ma insomma, non posso prendere questa narrazione come verisimile dal punto di vista strettamente del quotidiano. Resta il fatto che questa invenzione manzoniana è efficacissima per darci il senso della coazione che una ragazza in quella situazione è costretta a subire, e quindi in qualche modo trasmette una verità storica, sia pure attraverso un'accentuazione e una deformazione artistica della probabile realtà. Per il Manzoni si deve aggiungere che, oltre all'aspetto artistico e a quello storico, c'è una terza dimensione essenziale per la comprensione della sua opera, e cioè la dimensione etico-religiosa, o più precisamente la predicazione etico-religiosa, cioè c'è l'aspetto dell'oratorio. Quindi io condivido in pieno la critica letteraria, non sto poi a provare questo, è un po' buffo, ma comunque posso dire che io in questo l'accetto totalmente, che la critica letteraria che ha studiato il modo di comporsi o di non comporsi la poesia con l'oratorio. Ma questo evidentemente non significa criticare il Manzoni, ma solo comprenderlo per quello che voleva essere. Quindi può essere legittimo, tenuto conto di queste precauzioni, anche comparare poi la realtà storica con il romanzo, ma per capirlo meglio, per quello che voleva essere. Questa comparazione per lo più è stata fatta per i grandi eventi, per le grandi vicende storiche. Il mio tentativo sta appunto nel non fare più questo paragone con le grandi vicende storiche, ma piuttosto rispetto alla storia delle mentalità, a alla storia del quotidiano, alla storia della donna. E così siamo arrivati alla relazione. Ci si può domandare se, al di là dell'interesse per la donna e per i suoi sentimenti, che è tipico della letteratura romantica, ci sia nel Manzoni qualcosa di specifico nel modo con cui egli guarda al mondo femminile. Domanda molto impegnativa, a cui si può dare una prima risposta ricordando un brano manzoniano non molto conosciuto, appartenente al genere della sentenza ironica, che ci mostra un Manzoni poco tenero verso alcuni atteggiamenti maschili e molto vicino alla sensibilità odierna sul tema della donna. Nel Fermo e Lucia, interrompendo la descrizione degli stati d'animo di Gertrude in attesa del colloquio col vicario delle monache, Manzoni scrive: «Pretendono alcuni che le figlie di Adamo riescono molto meglio a dominare l'espressione esterna del loro animo che l'animo stesso, e che in questa parte riescono meglio assai che non quegli individui del genere umano che si chiamano di preferenza uomini. Ma tutte queste questioni di paragone tra l'un sesso e l'altro non saranno mai messe in chiaro, neppure ben poste, finché gli uomini soli ne tratteranno ex professo negli scritti, giacché essi peccano tutti verso le donne o di galanteria adulatoria o di ostilità grossolana». Non c'è dubbio che le coppie rappresentate nei Promessi Sposi rivelano in genere maggiore simpatia per la figura femminile, a cominciare da Renzo e Lucia. Ma più ancora che Renzo, è significativa l'altra figura maschile che forma una coppia narrativa con Lucia, e cioè Don Rodrigo. Il signorotto feudale è l'emblema della prepotenza, prepotenza dell'uomo verso la donna, del forte verso il debole, del ceto dominante verso il femminile. Nella raffigurazione della passionaccia di Don Rodrigo verso Lucia, morale cristiana, sensibilità umana e valutazione storica convergono. La donna è guardata con simpatia dal Manzoni perché parte del mondo degli oppressi, e l'oppressore, in questo caso Don Rodrigo, non è costruito in una chiave atemporale, ma si storicizza nella forma più idonea a gettare una luce sinistra sulla società del Seicento. Lucia è una ragazza senza padre, non a caso, perché questa condizione accentua il suo status di donna indifesa. Non ha padre e non ha neanche fratelli. È priva cioè delle persone che in quell'età e in quella società sono deputate alla salvaguardia del suo onore. Il raffronto del romanzo con la realtà storica, su questo aspetto particolare, può essere agevolmente impostato grazie ad alcuni studi sull'onore femminile, apparsi in questi ultimi anni su quaderni storici. Valendosi dei documenti conservati nell'archivio di Stato di Venezia, Guido Ruggero, ad esempio, ricostruisce il caso di Elena Cumano, sedotta e abbandonata incinta all'età di 18 anni. Siamo a Feltre nel 1588 e di fronte al podestà il capitano della città Vincenzo Capello, Elena testimonia a testa alta come sono andate le cose. Gian Battista Faceno, il seduttore, in realtà secondo lei doveva considerarsi già suo marito, avendole fatto in privato, prima del rapporto sessuale, promessa di matrimonio, con sconzuri grandissimi. È vero che pochi anni prima il Concilio di Trento aveva negato la validità dei matrimoni clandestini, ma una ventina d'anni non bastavano certo ad interrompere una tradizione e una mentalità che consideravano onorevoli i contatti sessuali successivi ad uno scambio segreto di consenso. E qui cito Ruggero: prima di Trento non vi è dubbio che, se Elena fosse stata in grado di provare quanto asserito, avrebbe conservato suo marito e l'onore, e il caso sarebbe stato chiuso. Nel 1588 non era più così semplice, ma la ragazza poteva ancora sperare di essere riconosciuta come legittimamente sposata e di essere quindi reintegrata nell'onore, perché aveva alle spalle il padre, Zuan Cumano, uomo esperto di legge, e dei fratelli, tutti quanti attentissimi a tutelare nell'onore della figlia o sorella l'onore della famiglia. Cito ancora Ruggero: esisteva un matrimonio dialettico tra sesso e onore di uso corrente, che identificava nel corpo e nell'onore della donna il corpo tradizione della famiglia e il suo onore. Per cui Zuan, esponente di una delle migliori famiglie di Feltre, poteva così rivolgersi al podestà della città chiedendo giustizia. Gian Battista Faceno, giovane audacissimo e arrogantissimo, insidiator e profidator dell'onestà della famiglia, avuto ardimento sotto finta e perfida promessa di matrimonio, sceleratamente tradir e deplorar Elena mia figlia. Adessa levando la virginità, et a me insieme con tutta la famiglia, levando eternamente l'onore che sempre m'è stato più che la vita caro. Questo richiamo documentario ci fa meglio comprendere il senso della rappresentazione manzoniana. Lucia, infatti, se fosse stata violata da Don Rodrigo, non avrebbe avuto un padre a difendere il suo onore con così convincente retorica. Nella società del tardo Cinquecento e del Seicento, dunque, una ragazza senza padre e senza fratelli, al novero dei deboli e degli oppressi, apparteneva sicuramente. Lucia, inoltre, non era di famiglia agiata. Don Rodrigo non aveva da temere la vendetta di una casata potente. Vale la pena di ricordare i pensieri che il Manzoni fa rimuginare al signorotto mentre aspettava nel suo castello l'arrivo dei bravi che gli avrebbero dovuto portare la ragazza rapita. E qui cito il Manzoni. Vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassù a vedere se c'è o non c'è una ragazza. Venga, venga quel tanghero, che sarà ben ricevuto. Venga il frate, venga la vecchia, vada a Bergamo la vecchia. La giustizia, oh la giustizia. Il podestà non è un ragazzo né un matto. E a Milano? Chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta? Chissà che ci siano. Son come gente perduta sulla terra. Non hanno neanche un padrone, gente di nessuno. Il soliloquio con cui Don Rodrigo si rassicura sulla sua impunità si traduce in uno squarcio efficacissimo sulle condizioni di quella società. Chi potrebbe difendere l'onore di una ragazza rapita? Il promesso, un modesto artigiano, viene irriso. Non è che un tanghero temerario, era già stato definito. Fra Cristoforo è solo, non è sostenuto neppure dal suo ordine, se si muove qualche potente. La madre diventa semplicemente la vecchia. È già molto se non si fa sparire anche lei e la si lascia invece riparare in uno stato confinante. Con tutti costoro il rapporto è di pura forza. Vengano pure. Quanto a chi dovrebbe far rispettare la legge a tutela dei più deboli, si può contare sulla connivenza e pavidità dei magistrati, specie se chi invoca giustizia risiede nel contado. In una domanda provocatoria è schizzato il tradizionale rapporto città-campagna. Chi si cura di costoro a Milano? Il brano termina in crescendo, approdando a giudizio più radicale e più duro. Chissà che ci siano, son come gente perduta sulla terra. Non hanno neanche un padrone, gente di nessuno. Come dire che, per i poveri e gli umili, il diritto ad avere giustizia, anzi il diritto stesso ad esistere, sussistevano soltanto in virtù della protezione accordata dal loro signore. Con il che il quadro del mondo feudale o semifeudale dipinto con gli occhi di un uomo dell'Ottocento era completo. Una ragazza del popolo, dunque, era a quei tempi terreno di caccia libero per un signorotto. Il motivo di sicuro effetto ricorre di frequente nella letteratura. Basta ricordare un romanzo più recente, uno dei migliori del Novecento italiano, di Gattopardo, in cui il principe siciliano Don Fabrizio Salina, a metà Ottocento, prova invidia verso i suoi antenati che nei secoli precedenti non avrebbero avuto difficoltà a levarsi la voglia di possedere Angelica, quasi come diritto feudale. Le rievocazioni licenziose del signore di Donna Fugata si colorano di malinconia. Il romanzo, infatti, è ambientato non nel Seicento, quanto mai feudale in Sicilia, ma nel semilibero Ottocento, in cui si comincia a capire, come d'altronde ai nostri giorni, che le violenze alle donne non si dovrebbero fare. Sia nei Promessi Sposi che nel Gattopardo, lo spunto storico è lo stesso, ma diverso è l'atteggiamento degli autori. Che si tratti della Sicilia sempre rimasta feudale, o della Lombardia rifeudalizzata, la bellezza femminile appare, come tutti gli altri beni della terra, appannaggio dei signori. Ma mentre questa percezione storica serve al Tommasi di Lampedusa ad esprimere una volta di più il suo ironico distacco e si risolve in un motivo puramente estetico, nel Manzoni diventa occasione di un discorso programmatico. Nel clima dell'Ottocento, infatti, le insidie portate alla virtù delle fanciulle erano sentite come una parabola delle offese recate alla religione, alla libertà e alla patria. Il Manzoni in particolare utilizza la sollecitudine per la virtù insidiata in funzione dell'apologia di un cristianesimo civilizzatore. Già negli ultimi anni del Settecento, la propaganda politica di opposta tendenza aveva sfruttato ampiamente lo sdegno per le violenze reali o presunte perpetrate contro le donne dagli eserciti invasori. Uno sdegno sempre largo di frutti, specie tra i popoli mediterranei. Era toccato dapprima ai francesi tra il 96 e il 97 fare le spese delle stampe e delle voci fatte circolare dai reazionari. Sicché, quando l'Armée d'Italie stava per giungere da qualche parte, città e campagne si spopolavano e per chi non poteva fuggire, perché era troppo povero per farlo, le madonne soccorrevoli muovevano gli occhi. In una memoria del 1800, così veniva rievocato quel momento. Ho io veduto con gli occhi miei piangere le madri sul destino dei loro teneri figlioletti, che si stringevano al collo e singhiozzando baciavano, perché prevedevano che essi avrebbero servito di pasto alle soldatesche francesi. Ho io sentito con le mie orecchie le semplici donnicciole e i deboli del volgo, alzando le mani al cielo e facendo delle braccia croce, parlare a vicenda delle vituperose licenze che i francesi si sarebbero prese contro la femminile onestà. Ma già nel 99 le parti si erano invertite, perché gli austro-russi, guidati dal Suvorov, anche se non mangiavano i bambini, pare fossero ugualmente interessati alle italiche donne, e questa volta ad attestarlo erano i memoriali dei Giacobini. Dalla propaganda politica dell'età della rivoluzione, al romanzo e al melodramma dell'Ottocento, il passo era breve. Ed ecco che Guerrazzi, nell'assedio di Firenze, rappresentava l'eroica virtù di Lucrezia, che per non cedere alle brame di Giovan Battista da Recanati si gettava nell'Arno. L'insidiatore appariva agli occhi dei lettori particolarmente abietto, essendo un italiano al servizio dello straniero. Il contesto era quanto mai patriottico. I fiorentini che nel 1530 resistevano all'imperiosa volontà di Carlo V impersonavano l'ultima scintilla di dignità nazionale nell'epoca buia delle invasioni straniere. Una dignità che il Risorgimento doveva risuscitare. Lo notava tra gli altri lo stesso Mazzini, in una lettera dedicata al romanzo, sentenziando tra l'altro che proprio perché invitava l'azione e non indulgeva alla rassegnazione, l'assedio di Firenze era molto migliore dei promessi sposi. Il motivo della virtù insidiata, eminentemente melodrammatico, rimbalzava nella librettistica, soprattutto verdiana. Francesco Maria Piave aveva il suo da fare a scrivere e riscrivere il libretto del Rigoletto, che doveva essere rappresentato alla Fenice. La censura della Venezia austriaca trovava imprudente che si ricalcassero troppo da vicino i personaggi di Le Roi s'amuse di Victor Hugo, che d'altronde per quest'opera aveva passato i suoi guai della Francia di Carlo X. Un re che seduceva una figlia del popolo poteva suscitare sentimenti inopportuni e Francesco I, nel Rigoletto, diventava prudentemente il duca di Mantova, che aveva il vantaggio di regnare su un principato ormai estinto e per di più in quell'epoca lontana e buia che era stato il Medioevo. Ma re o duca che fosse, il seduttore era pur sempre ignobile, e lo spettatore che stava tutto dalla parte di Gilda, udendo il vendetta, tremenda vendetta del padre Rigoletto, poteva ben vedere nei panni del duca lo straniero oppressore. Così il motivo della virtù insidiata ripercorreva tutto il romanzo e il melodramma dell'Ottocento, e l'oppressore si attualizzava di volta in volta nell'imperatore pagano, nel papa, nel tedesco, per lo più in quest'ultimo, tenuto conto del clima patriottico. Non si deve dimenticare infatti che secondo l'accezione di gran lunga prevalente nella stampa risorgimentale, tedesco voleva dire austriaco. L'identificazione tra tedeschi e austriaci, accomunati d'altronde dalla stessa incomprensibile lingua, aveva una matrice neoguelfa, per cui i precedenti del riscatto nazionale dovevano essere visti nelle lotte del Papa e dei comuni contro il Barbarossa. Amico dell'Italia, secondo i neoguelfi, il Papa diventava uno dei suoi principali nemici, secondo i neoghibellini. Guerrazzi aveva modo di dimostrarlo, visto che contro la libera Firenze, Clemente VII, per restaurare i Medici, si era rivolto a Carlo V. E persino Garibaldi si faceva romanziere, rappresentando in Cleia la virtù insidiata di una fanciulla romana, insidiata, manca a dirlo, da un cardinale, a scorno del potere temporale e del Papa Re. Ma era proprio un cardinale, sia pure non italiano, il Wiseman, a illustrare la virtù di un'altra ragazza romana, di 16 secoli prima, Fabiola, nel romanzo omonimo. Questa volta, ad essere messi in cattiva luce, erano i tempi della Roma pagana che i detrattori della società cristiana avrebbero voluto risuscitare. Nessun secolo, dunque, come l'Ottocento, aveva fremiti così morbosamente virtuosi e così polivalenti nell'immaginare tutte le possibili offese che potevano essere recate all'onore femminile. È indubbio che la vicenda della Lucia Manzoniana si iscrive in questo clima, sia pure ad un livello più alto. Il Manzoni non indulge alle situazioni plateali così frequenti nel romanzo e soprattutto nel melodramma del suo tempo. E ciò per un senso di misura che nasce da una felice convergenza della sua ispirazione etico-religiosa e del suo gusto artistico. È segno infatti di grande arte smorzare i toni nelle situazioni forti, a cominciare da quelle che hanno a che fare con amore e morte. Le violenze subite dalle donne durante l'assedio di Firenze sono descritte da Guerrazzi in innumerevoli pagine verbose e frementi. Il Manzoni, invece, fin dall'inizio del romanzo, trasfigura l'indignazione in una dolente ironia. E qui cito il Manzoni. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, cioè Lecco, già considerabile, era anche un castello e aveva perciò l'onore di alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre. Anche nel seguito del romanzo, quando cale in Lombardia per l'impresa di Mantova l'esercito del Wallenstein, che, ricorda il Manzoni, aveva desolato la Germania, i cenni alle violenze sono sobri. E cito, i mobili diventavano legna, le case stalle, senza parlare delle busse, delle ferite, degli stupri. E non manca una nota di humor che serve ancora una volta a stemperare il dramma, trasferendolo nell'ottica di Don Abbondio. Cito, vengono, son 30, son 40, son 50.000, son diavoli, son ariani, son anticristi, hanno saccheggiato Corte Nuova, han dato fuoco a Prima Luna, devastano Introbbio, Pasturo, Varzio, sono arrivati a Balappio, domani son qui. Sono parole, starei per dire versi, dal ritmo epico, ma dell'etica comica di un pauroso. Lasciando il quadro delle violenze che hanno sempre avuto dignità storica, per passare a quelle che solo ora sembrano acquistarla grazie ai nuovi interessi per la storia della vita quotidiana, nel Fermo e Lucia troviamo un passo atto ad illuminare un aspetto della vita delle ragazze in una filanda. È Lucia che narra a Fermo e alla madre le attenzioni a cui era stata sottoposta da Don Rodrigo. E cito, quel senza timore di Dio di Don Rodrigo veniva spesso alla filanda a vederci trarre la seta. Andava da un fornello all'altro facendo a questa e a quella mille vezzi l'uno peggio dell'altro. A chi ne diceva una trista, a chi una peggio. E si pigliava tante libertà. Chi fuggiva, chi gridava, se purtroppo v'era chi lasciava fare. Se ci lamentevamo al padrone, egli diceva, badate a fare il fatto vostro, non gli date ansia, sono scherzi. E borbottava poi, gli è un cavaliere, gli è un uomo che può fare del male, è un uomo che sa mostrare il viso. Quel tristo veniva talvolta con alcuni suoi amici, gente come lui. Un giorno mi trovò mentre io usciva e mi volle tirare in disparte e si prese con me più libertà. Io gli sfuggii ed egli mi disse in collera, ci vedremo. I suoi amici ridevano di lui ed egli era ancor più arrabbiato. Allora io pensai di non andar più alla filanda. Feci un po' di baruffa con la Marcellina per avere un pretesto e vi ricorderete, mamma, che io vi dissi che non ci andrei. Nessun archivio conserva descrizioni come queste sulla vita di filanda. I proprietari non registravano i fatti di costume sui libri di conti, né le operaie tenevano un diario. È il caso classico in cui la fantasia creativa di un romanziere vale a sostituire quello che i documenti non possono dare sulla vita quotidiana e sulla storia della donna. Ci si può solo domandare se una situazione come questa può riguardare un signorotto del Seicento o non piuttosto qualche padroncino di filande lombarde dell'Ottocento a cui Manzoni, nella circostanza, presta il porto di Don Rodrigo. La rievocazione di Lucia diventa molto più sobria nei Promessi Sposi, con vantaggio per l'arte e a danno della storia del quotidiano. A dimostrazione che gli interessi degli storici non sempre coincidono con quelli dei romanzieri e neppure con quelli delle anonime protagoniste della vita di Filanda. Queste infatti erano destinate a non lasciar tracce, se non nel caso in cui, per sfortuna loro, ma per fortuna degli storici, avessero dovuto far ricorso ad un giudice criminale per una causa di stupro. Il Manzoni è dunque sensibile, di una sensibilità umana e cristiana, alle vicende nascoste e dolorose delle ragazze e delle donne del popolo. Questa sensibilità si dispiega, per naturale convinzione, nell'intenzione apologetica che guida il romanzo, in funzione non di una generica apologia della religione, ma di una specifica apologia di un cristianesimo libero dalle scorie dei secoli precedenti. «Ma la cosa nascer povero, il mio caro Renzo», esclama Perpetua durante il concitato colloquio in canonica, quando il promesso sposo, esterrefatto e adirato, riesce un po' alla volta a capire perché Don Abbondio si rifiuta di celebrare il suo matrimonio. A questa esclamazione fa da contrappunto un'altra, messa poco dopo in bocca a Lucia. «Il Signore c'è anche per i poveri». In due battute, espresse nella forma dialogica di un romanzo, è così riassunto implicitamente tutto il dibattito che travaglia il cattolicesimo dall'età dei lumi della rivoluzione a quella dell'avvento del socialismo. In altre parole, in Manzoni, ai detrattori del cristianesimo perché accusato di essere storicamente infecondo e socialmente alienante, sembra ribattere quei personaggi e le vicende del romanzo. No, il messaggio evangelico è un fermento di civiltà, a vantaggio soprattutto degli oppressi. A monte di questa convinzione manzoniana c'è il multiforme filone del romanticismo cattolico, con le sue numerose sfaccettature, ora reazionarie, ora progressiste, caratterizzato comunque dalla rivalutazione apologetica della funzione civilizzatrice del cristianesimo. Il Manzoni partecipa a questo filone nella sua versione più avanzata, che perché il cattolicesimo possa dispiegare tutte le sue virtualità, postula un suo rinnovamento che lo renda più atto a rispondere alle esigenze dei tempi. In questo il Manzoni è agli antipodi degli scrittori teocratici della Restaurazione che idealizzano la società cristiana pre-rivoluzionaria. Non a caso il romanzo è ambientato nel Seicento, trasformato in idolo polemico che riassume tutti i mali della società e della Chiesa, da cui il cattolicesimo rinnovato dell'Ottocento si dovrebbe liberare. Su un piano più strettamente politico, e questa è la linea su cui si muove il moderatismo risorgimentale e che approda al cattolicesimo liberale. Il Manzoni si situa in un ambito che potremmo definire pre-liberale. Non giunge ad affrontare i nodi istituzionali dei rapporti tra Stato e Chiesa, non si fa carico delle questioni della libertà religiosa e del potere temporale. Ma il terreno su cui si pone, eminentemente etico e religioso, è di tutto questo una premessa necessaria. Per cui, ad esempio, della gran questione della libertà di coscienza, tutto il romanzo è una parabola, vista però non nei suoi aspetti giuridici o ideologici, ma nei suoi fondamenti religiosi più veri, che stanno nel rispetto del mistero della coscienza dell'uomo e nella fede nell'opera della grazia. Il Seicento, dunque, è un obiettivo polemico per chi nell'Ottocento voglia liberare la Chiesa e la società dalle scorie del passato. E se si vuole davvero rinnovare il cattolicesimo e ricostituire una nazione, non è solo il Seicento, ma tutta l'età della Controriforma a dover rispondere del suo autoritarismo, della costrizione in materia di religione, dei sistemi educativi ipocriti, del suo formalismo. In questo tutti i liberali, cattolici e non cattolici, sono d'accordo. E lo sono tanto più in quanto questi aspetti negativi si sintetizzano nella decadenza dell'Italia dominata dallo straniero. I gesuiti rappresentano la quintessenza di quest'età e diventano facilmente un mito negativo, basta pensare a Gioberti, in quanto è agevole stabilire una continuità tra loro, la loro influenza nella Chiesa e nella società post-vientine, e la loro opposizione al liberalismo nel corso dell'Ottocento. 1800. Manzoni non ha a disposizione il termine di controriforma, né tantomeno può valersi di conoscenze e di dibattiti storiografici che accompagneranno la diffusione del concetto nel secondo Ottocento e nel primo Novecento. L'idea che tra i suoi contemporanei prevale è quella della decadenza civile e morale dell'Italia nell'età delle dominazioni straniere. Basta pensare a De Sanctis, così fine nell'interpretare Manzoni per quanto distante dalle sue convinzioni religiose. È significativo che la società rappresentata dai Promessi Sposi sia tratteggiata in negativo anche perché è ambientata, oltre che nel Seicento, in una Lombardia dominata dagli spagnoli. I criteri interpretativi con cui Manzoni la giudica sono tipici di un uomo vissuto nella Lombardia napoleonica e che ha nel sangue per discendenza familiare il ricordo delle riforme settecentesche della Lombardia austriaca. Nel primo capitolo dei Promessi Sposi, dopo aver riportato numerosi squarci delle grida contro i bravi, il romanziere, per spiegare la loro inefficacia, passa dalla erudizione ironica a giudizio storico vero e proprio. Viene ricordato prima di tutto il diritto di asilo, uno dei temi classici della polemica anti-ecclesiastica e anti-nobiliare del Settecento. E cito il Manzoni: chi prima di commettere il delitto aveva prese le sue misure per ricoverarsi a tempo in un convento, in un palazzo, dove i birri non avrebbero mai osato metter piede, poteva ridersi di tutto quel fracasso delle grida. Forse non è inutile ricordare che il diritto di asilo, abolito dalle riforme settecentesche nella Lombardia austriaca e nella Toscana leopoldina, sussisteva ancora quando Manzoni scriveva in numerose altre parti d'Italia. In Piemonte doveva essere soppresso solo nel 1850, con le leggi Siccardi, sostenute dal ministro di giustizia Pietro di Santa Rosa, che per questo sarebbe stato scomunicato e in seguito al suo rifiuto di ritrattazione sarebbe morto senza il conforto dei sacramenti. È lecito ipotizzare che il ministro subalpino, cattolico liberale, avesse letto i Promessi Sposi. Nel romanzo vi è poi la critica al carattere arbitrario dell'applicazione delle pene previste dalle leggi, e in questo si può vedere un eco della consuetudine del Manzoni con la corrente tardo-illuministica degli ideologhi, particolarmente attenti alla certezza del diritto. Quando il romanziere scrive che le pene erano comunque pazzamente esorbitanti e aggiunge che anche per questo servivano più a vessare i deboli che ad intimorire i prepotenti, si sente riecheggiare il Beccaria. In questa società dominata dall'arbitrio, in caso di Manzoni, era inevitabile che ognuno cercasse di far valere i propri interessi grazie all'appartenenza ad un ceto o ad una corporazione. E cito ancora: il clero vegliava a sostenere e ad estendere le sue immunità, la nobiltà i suoi privilegi, il militare le sue esenzioni. I mercanti, gli artigiani erano arruolati in maestranze e in confraternite. I giurisperite formavano una lega, i medici stessi una corporazione. Ognuna di queste piccole oligarchie aveva una sua forza speciale e propria. In ognuna l'individuo trovava il vantaggio di impiegare per sé, a proporzione della sua autorità e della sua destrezza, le forze riunite di molti. I più onesti si valevano di questo vantaggio a difesa soltanto. Gli astuti e i facinorosi ne approfittavano per condurre a termine ribalderie alle quali i loro mezzi personali non sarebbero bastati e per assicurarsene l'impunità. Non è difficile notare che questa è la descrizione di una società divisa in caste privilegiate, quale la poteva offrire solo chi aveva alle spalle il superamento dell'antico regime. Una società che però per il Manzoni, uomo dell'Ottocento, faceva tutt'uno con la decadenza nazionale, colta soprattutto negli aspetti religiosi e di costume. È dall'analisi della società, infatti, che nascono nei Promessi Sposi le raffigurazioni più significative della decadenza della Chiesa. Don Abbondio è la metafora di un clero inadeguato alla sua missione, ma il curato è per l'appunto la precisa esemplificazione del caso dell'individuo che, per proteggersi, ha bisogno di appartenere ad una casta. E cito: il nostro Don Abbondio, scrive il Manzoni, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dunque accorto, prima quasi di toccare gli anni della descrizione, d'essere in quella società come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Aveva quindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti che lo vollero prete. Per dir la verità, non aveva gran fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava. Procacciarsi di che vivere con qualche agio e mettersi in una classe riverita e forte gli erano sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Tutto l'intreccio del romanzo è costruito intorno alla viltà di questo prete, così inadeguato istituzionale in quella determinata epoca. Non va dimenticato che il senso storico del Manzoni si esprime nell'ambientare la stessa meschinità del curato in un preciso momento della storia della Chiesa, in relazione ad una significativa innovazione, quale quella delle norme tridentine sulla celebrazione dei matrimoni. Il personaggio, quindi, non si traduce in una generica polemica contro la decadenza del clero, polemica di cui vi sono innumerevoli esempi in svariati contesti storici, ma vuole esprimere un giudizio sull'età post-tridentina. In altri termini, il Manzoni nota che, al rigore con cui il Concilio di Trento aveva riaffermato la funzione del sacerdozio cattolico e la sua giurisdizione sul popolo fedele, non sempre corrispondeva una riforma adeguata del clero, e ciò a causa del contesto sociale. È forse inutile aggiungere che il giudizio critico del romanziere evita le generalizzazioni. Già nel raffigurare Don Abbondio, il Manzoni fa intravedere sullo sfondo, cito, quei suoi confratelli che a loro rischio prendevano le parti di un debole oppresso contro un serpeggiatore potente. Sono i membri del clero contro cui il nostro curato predicava, sempre però a quattro occhi, con un piccolissimo crocchio, perché si mischiavano, cito, delle cose profane a danno della dignità del sacro ministero. Ma a parte questo brevissimo cenno, di cui basterebbe aggiornare qualche termine per scoprirne l'attualità, del romanzo fanno da contrappeso alla figura di Don Abbondio quelle di padre Cristoforo e del cardinale Federico. La figura del cappuccino sembra testimoniare la permanente vitalità del messaggio evangelico, nonostante le defaillance del clero. Quella dell'arcivescovo vuole salvare la stessa configurazione istituzionale della Chiesa e così la riforma tridentina è salva. Potrebbe rimanere la curiosità di sapere in che misura gli ecclesiastici del Seicento fossero assimilabili a Don Abbondio e in quale a quella di padre Cristoforo, ma questa è una domanda che non è possibile rivolgere al Manzoni. Ai suoi tempi non erano ancora in uso i metodi della storia quantitativa che oggi invece danno gran soddisfazione ai nostri bisogni di percentuali. Tutte queste figure comunque, con le loro ombre e le loro luci, sono tipiche di quella che non il Manzoni, ma noi, abbiamo definito età della Controriforma. Addolcito nei tratti dal romanzo, il personaggio storico del cardinale Federico Borromeo si situa a tutto tondo in questa età. L'ordine dei Cappuccini, a cui appartiene padre Cristoforo, potrebbe essere insignito, da chi lo volesse, del titolo di Riforma Cattolica, ma solo alle sue origini. Ai tempi del nostro animoso frate, non c'è dubbio che la Riforma Cattolica aveva ceduto il passo alla Controriforma, anche per gli ordini riformati nati nel Cinquecento. È significativo che il Manzoni, pur mostrando grande simpatia per i cappuccini, non manchi di rappresentare i legami che l'ordine aveva con la nobiltà, i reciproci favori e i buoni rapporti con i potenti. Esempio illuminante quello del colloquio tra il padre provinciale e il contadino. Nel Seicento le virtù individuali coltivate fin dalla fondazione sono ancora vive. La pietà, lo zelo per i poveri, la difesa degli oppressi rimangono patrimonio comune dei frati. Ma anche l'ordine dei Cappuccini, sembra dire il Manzoni, non può fare a meno di pagare il suo tributo alla società del tempo, all'orgoglio di casta, al punto d'onore, e persino gli umili Cappuccini non possono trascurare l'onore dell'abito. Nel romanzo, oltre ai cedimenti del padre provinciale, vengono dipinti i devoti inchini del padre guardiano di Monza verso la signora, la protezione richiesta e accordata da un convento all'altro, protezione che si iscrive nella legge più generale dell'assetto corporativo e clientelare della società. C'è insomma una convivenza tra le virtù eroiche dei singoli religiosi e i compromessi istituzionali con le logiche di potere e costumi del tempo. Questa convivenza, appunto, è uno dei tratti distintivi della Controriforma. Resta il fatto che età della Controriforma è una nostra traduzione, ma più corrispondente comunque al concetto che il Manzoni si era fatto del Seicento che intendeva rappresentare. La logica di casta della società di antico regime aveva avuto conseguenze negative sul reclutamento del clero e Don Abbondio appariva come il personaggio emblematico di un sacerdozio senza vocazioni. Ma la stessa logica aveva avuto effetti deleteri anche sulla vita conventuale. E di questo non solo il romanzo, ma la stessa realtà storica fornivano un caso tragico e significativo nella figura di Virginia Maria de Leiva, la monaca di Monza. Non c'è dubbio che la vicenda delle monacazioni forzate si prestava straordinariamente alla polemica verso il Seicento controriformistico. La sua rievocazione permetteva di colpire insieme gli aspetti negativi della società e quelli della Chiesa, sotto il comune denominatore della coazione. E nella genesi del fenomeno, ancora una volta, era la difesa del privilegio di casta, materializzato nella preservazione del patrimonio familiare, che si riverberava con conseguenze infauste sulla vita religiosa. La signora di Monza era ancora viva, ormai graziata dal cardinale Federico Borromeo e liberata dal carcere, quando nel 1641 il canonico Ripamonti, nella storia patria che avrebbe fornito lo spunto al Manzoni, scriveva: una fanciulletta di sangue principesco, come in allor si diceva, era stata menata in convento, non di sua elezione, come poscia pechiaro, ma conforme al costume dei grandi, che, per soddisfar l'avarizia, tengono speditivo e dicevole al casato collocare le figlie a quel modo. Questa forma nobiliare di controllo delle nascite si aveva provocato la condanna del Concilio di Trento e suscitato lo sdegno e rimproveri di sermonaire e moralisti cattolici del tempo come Jean-Baptiste Massillon. Nel Settecento riformatore era divenuto uno dei temi classici della polemica anticlesiastica. Basta pensare a La Religieuse di Diderot e prima ancora al dramma Mélanie ou la Religieuse di Jean-François de La Harpe. In effetti, il fenomeno aveva assunto dimensioni non trascurabili, se si pensa che, come risulta da indagini recenti, nella Milano e nella Venezia della metà del Seicento erano finite in convento ben la metà delle figlie di famiglie nobili. A spiegare il fenomeno ci sono anche dei contributi che riguardano anche la metà del Cinquecento. Vorrei qui leggere brevemente qualche riga tratta da questo contributo di Gabriella Zarri sui monasteri femminili, città nei secoli XV-XVIII, qui in questo nono volume degli annali della storia d'Italia in Auri. Qui la Zarri mette in rilievo che una delle cause era anche l'aumento delle doti che si era avuto a partire dalla metà del Cinquecento, aumento delle doti che si dovevano dare alle figlie da sposare, che aveva finito per influire sul il desiderio dei padri di indirizzare al monastero le figlie proprio per evitare delle doti troppo catastrofiche. E qui appunto cito l'anonimo autore, è bello questo anche per far vedere come molti autori del tempo descrivano questa situazione disperata poi delle monache che visitavano, che magari erano state costrette ad andare in convento. Ci sono anche poi, ma questo non lo leggo per non dilungarmi troppo, ci sono anche delle lettere di visitatori ai tempi dello stesso Carlo Borromeo che descrivono esattamente queste situazioni. Qui si parla di un anonimo autore e di un ragionamento sopra le pompe della città di Bologna, della metà del Cinquecento, che dice: le donne poi, per qualsivoglia loro laudabil parte, non trovano un marito senza immensa dote, quasi come esposte son forse alcuna volta sforzate dai padri e dai fratelli ad entrare con miserabile fortuna nei monasteri, non per orare e benedire, ma da loro per bestemmiare e maledire il corpo e l'anima dei progenitori e attinenti suoi, ed accusare Dio che li abbia destinati a nascere. E quelle sante case, fabbricate per libera dedicazione ed animi casti, sono usate, che Dio non voglia, come per sentine di cose rifiutate dal mondo e spurgatoi e scaricamenti delle famiglie. Non c'è male. Però ci sono poi dei testi proprio di visitatori del Coevia, la vicenda stessa della monaca di Monza, che sostanzialmente dicono cose simili e descrivono proprio l'atteggiamento delle monache che si erano configurate con questi visitatori che si dicevano disperati. E qui appunto la Gabriella Zardi accenna a situazioni di alcune città, a Venezia, a Firenze, l'aumento delle doti è già in atto nel corso del secolo XV, e non a caso, pur avendo i fiorentini già promosso un'istituzione di dubbia importanza economica e sociale come il Monte delle Doti, il flusso delle fondazioni monastiche in questa città ha un processo accelerato fin dall'ultimo quarto del 400. A Lucca l'ascesa delle doti si verifica specialmente tra il 1530 e il 1550. E la legge del 9 febbraio 1546, che tenta di porre un freno a tale ascesa, fa un esplicito richiamo ai cittadini che, non potendo adeguatamente dotare le figlie, e qui tra virgolette, molte volte con poca contentezza le fanno monache. Anche a Modena l'aumento delle doti si verifica intorno al terzo decennio del 500, periodo in cui i conventi sono pieni, ecco qua tra virgolette, pieni fino al colmo di donne. Che il Manzoni non abbia temuto di affrontare il caso della monaca di Monza è significativo, così come è significativo che non vi abbia rinunciato nel rifacimento del romanzo, sia pure passando dai 6 capitoli del Fermo e Lucia ai 2 dei Promessi Sposi. Nonostante i consigli favorevoli ad una totale soppressione espressi da amici autorevoli come Claude Fauriel e Monsignor Luigi Tosi. Più ancora che le possibilità di polemica anti-ecclesiastica offerte dal tema, sconsigliavano la rappresentazione del caso i risvolti scandalosi ed erotici. Lo avrebbero confermato non poche osservazioni dei costumati recensori ottocenteschi. Ciò che soprattutto va sottolineato è che nell'affrontare un argomento già così ampiamente rappresentato, Manzoni si riveli uomo del suo tempo e insieme genialmente diverso. E ancora in parte uomo del Settecento. Basta accennare al rilievo concesso nello spiegare le motivazioni e le caratteristiche del padre di Geltrude alla sua ignoranza. E cito: il padre della infelice, di cui stiamo per narrare i casi, era per sua sventura e di altri molti un ricco signore, avaro, superbo e ignorante. E Ripamonti, come si è visto, aveva insistito sull'avarizia. Nel Fermo e Lucia, il marchese Matteo, cioè Don Martino de Leiva, appare anche come superbo e ignorante, e qui si tratta dell'ignoranza intesa nell'accezione polemica tipicamente settecentesca. Ma Manzoni è soprattutto uomo dell'Ottocento, e lo si vede dall'attenzione concessa ai sentimenti e agli aspetti più intimi di una coscienza sottoposta ad una grave violenza psicologica. Tra la raffigurazione manzoniana della monaca di Monza e i drammi settecenteschi sulle monacazioni forzate, vi è qualcosa che ricorda la diversità riscontrabile tra la storia della colonna infame e le osservazioni sulla tortura di Pietro Verri. La polemica contro i sistemi di costrizione, contro le leggi e le procedure inique, contro il fanatismo delle folle e la superstizione, nel romanziere lombardo si trasforma in una pacata, ma ancora più tragica, analisi degli effetti devastanti operati dalla costrizione sul senso morale di una coscienza. Ricostruendo con l'immaginazione creativa del romanzo la storia di Virginia Maria de Leiva, che nel Fermo Lucia diventa Geltrude con l'L e nei Promessi Sposi Gertrude, R, il Manzoni non si muove coi criteri odierni di uno storico della Chiesa o di uno storico della donna, ma uomo dell'Ottocento si ispira essenzialmente al culto dei diritti della coscienza, alla rivendicazione della libertà di decisione personale. Ma questo, appunto, è uno dei motivi in cui la sensibilità liberale ottocentesca è più in contrasto con la società e la Chiesa della Controriforma. La scandalosa storia, appena accennata da Ripamonti, grazie al suo finale edificante, diventa nella creazione manzoniana una parabola volta a mostrare i gravissimi danni che il mancato rispetto dei diritti della coscienza può arrecare, soprattutto nell'ambito più intimo, quello della religione. Questa parabola si puntualizza nel rapporto padre-figlia, perché se Lucia è una ragazza senza padre, Geltrude il padre ce l'ha, e come? Sia il padre che la figlia nel romanzo acquistano il valore di simboli. Il marchese Matteo del Fermo Lucia, che nei Promessi Sposi diventa semplicemente il principe, appare come la metafora dell'autorità in una società caratterizzata dalla costrizione. Geltrude incarna l'idea della compressione della libertà individuale e della coscienza personale, in quanto la donna, e in particolare la figlia, è vista come il soggetto più debole nell'assetto sociale e familiare della società gerarchica di antico regime. Il rapporto padre-figlia, così configurato, non fa altro che attualizzare nel Seicento un motivo di gran lunga più antico, il topos letterario della figlia immolata, un motivo classico quanto quello della virtù insidiata. Nella storia e nella letteratura se ne sono date svariate versioni. La figlia immolata ad una divinità crudele per propiziare la partenza di una spedizione e la vittoria delle armi paterne, e a questa figlia, ad un certo punto, si è dato un nome, Ifigenia. La figlia fatta monaca per preservare il patrimonio familiare, la figlia costretta a sposare chi non amava, la figlia ostacolata nel suo amore e indotta a non sposarsi perché così voleva la ragione di famiglia. A seconda dei contesti storici, diverse sono le forme dell'immolazione. Tommaso di Lampedusa ambienta nel Risorgimento un modo nuovo di sacrificare la figlia, secondo le mutate esigenze dei tempi. Infatti, nel Gattopardo, Concetta deve rinunciare a Tancredi perché il padre, principe Don Fabrizio, decide di destinare il pupillo ad un matrimonio rivoluzionario con Angelica, la figlia di un borghese arricchito. Causa inconsapevole di tutto è Garibaldi, sbarcato vittoriosamente in Sicilia. La strategia del principe rappresenta un capovolgimento delle finalità consuete nelle alleanze matrimoniali dell'antico regime, ma la volontà dispotica e sacrificatoria verso la figlia Concetta è la stessa. Siamo nel 1860. L'anno prima, e qui dalla letteratura si passa alla storia, un'altra figlia era stata sacrificata per favorire il movimento risorgimentale, Clotilde di Savoia. Clotilde, come Ifigenia, era figlia di un re. Anch'essa doveva propiziare una divinità che si incarnava in Napoleone III, indispensabile per la vittoria delle armi paterne. E così la figlia di Vittorio Emanuele II, una sedicenne pia e cattolicissima, era stata indotta a sposare Plon Plon, ossia Gerolamo Bonaparte, l'imperiale cugino, di 20 anni più anziano e per giunta libertino, anticlericale e frammassone. A completare il quadro si può ricordare che l'amor patrio aveva già offerto un'altra donna alla divinità da propiziare, la contessa di Castiglione. Ma torniamo a Geltrude. Qui il contesto storico è dato da una società nobiliare che cerca di conservare il suo splendore facendo ricorso al maggiorascato. Ma altrettanto importante è l'uso strumentale della religione per finalità di casta. E questo è tipico della società della Controriforma. Il padre impone la sua volontà valendosi delle possibilità che una religiosità ipocrita gli offre per vincere le riluttanze della figlia. Forse nulla esprime la condanna del Manzoni quanto il ritmo incalzante e il clima da incubo che egli riesce a creare nel descrivere i passi che conducono Geltrude al sacrificio. Il punto di partenza è ancora una volta significativamente un problema di onore femminile. La lettera al paggio. La peccatrice, perché tale viene considerata e tale si sente, vede agganciarsi a questo fallo è il termine usato dal Manzoni, tipicamente ottocentesco, alla sua vergogna e al suo pentimento, espresso con quel sommesso e fatale a sì, tutta una catena costruita con diabolica ipocrisia dal padre, che la conduce inesorabilmente al convento. Il romanziere raggiunge uno dei culmini della sua arte, riuscendo a mostrare, con una finissima analisi psicologica, come da un cedimento parziale, una coscienza coartata, si è indotta a passare ad un altro cedimento, illudendosi che non sia definitivo, mentre in realtà così collabora con la volontà tirannica che conduce il gioco verso l'approdo finale. È la stessa tecnica narrativa che nella colonna infame mostra come un innocente arrivi a dichiararsi colpevole coinvolgendo altri innocenti nell'accusa, secondo la regia perversa di chi compie l'interrogatorio. È uno dei momenti in cui la forza etica, oltre che artistica, che promana da queste pagine, le porta al livello di un messaggio di valore universale. È il fatto di domandarsi: si tratta di situazioni tipiche ed esclusive di una società di antico regime? Sono violenze psicologiche compiute solo dagli interrogatori condotti dagli sbirri del Seicento? Si sono favorite o imposte vocazioni non autentiche solo ai tempi in cui vigeva il maggiorascato? In effetti, benché il romanzo sia ambientato in un contesto storico preciso, Il messaggio del Manzoni lo sentiamo come universale, perché i padri possono essere tanti, e forse nessuno è più condizionante di quello che incombe e domina, senza apparente violenza, in nome degli ideali spirituali, culturali o politici che rappresenta. Il padre Geltrude è tratteggiato con le caratteristiche tipiche di un principe che estende metodi e mentalità feudali dai rapporti sociali al vivere familiare. E qui cito: il contegno del principe era abitualmente quello di un padrone austero, ma quando si trattava dello stato futuro dei suoi figli, dal suo volto e da ogni sua parola traspariva un'immobilità di risoluzione, una ombrosa gelosia di comando che imprimeva il sentimento di una necessità fatale. È interessante il passaggio: il principe è abitualmente un padre padrone, ma nella determinazione del destino dei figli assume l'aspetto di una divinità iraconda o addirittura del fato. La storia della Geltrudina, che fin da bambina deve giocare con bambole vestite da monaca, si svolge sotto lo sguardo di questa divinità inflessibile che vede e prevede tutto. Quando giungono i momenti decisivi, basta a Geltrude volgere lo sguardo verso il volto del padre per capire che non ha scampo. È appena passato un giorno da quando ha chiesto perdono per il fallo commesso con la lettera al paggio, che già la figlia viene condotta dal padre in carrozza a Monza per chiedere di essere ammessa in convento. E qui cito dal romanzo: sul finir della strada il principe rinnovò l'istruzione alla figlia e le ripeté più volte la formula della risposta. All'entrare in Monza, Geltrude si sentì stringere il cuore. Al fermarsi della carrozza, davanti a quelle mura, davanti a quella porta, il cuore si strinse ancor più a Geltrude. Si smontò tra due ali di popolo che i servitori facevano stare indietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta l'obbligavano a studiare continuamente il suo contegno. Ma più di tutti quelli insieme la tenevano in soggezione i due del padre, ai quali essa, quantunque ne avesse così gran paura, non poteva lasciar di rivolgere i suoi ogni momento. E quegli occhi governavano le sue mosse e il suo volto come per mezzo di redini invisibili. Scesi di carrozza, Geltrude si trova faccia a faccia con la madre badessa, che le domanda, come prescrivono le regole, cosa desideri in quel luogo. E qui riprendo la citazione: «Son qui», cominciò Geltrude, ma al punto di proferire le parole che dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un momento e rimase con gli occhi fissi sulla folla che le stava davanti. Vide in quel momento una di quelle sue note compagne che la guardava con un'aria di compassione e di malizia insieme, e pareva che dicesse: «Ah, la c'è cascata la brava». Quella vista, risvegliando più vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti, le restituì anche un po' di quel poco antico coraggio, e già stava cercando una risposta qualunque diversa da quella che le era stata dettata, quando, alzato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per sperimentare le sue forze, scorse su quella un'inquietudine così cupa, un'impazienza così minaccevole, che, risoluta per paura, con la stessa prontezza che avrebbe preso la fuga dinanzi a un oggetto terribile, proseguì: «Son qui a chiedere di essere ammessa a vestir l'abito religioso in questo monastero dove sono stata allevata così amorevolmente». Al motivo forte del rapporto padre-figlia fanno da contorno nel romanzo elementi secondari e passaggi minori, che però servono a storicizzare la vicenda in un contesto tipicamente seicentesco. Il vivere nobiliare viene dipinto come vacuo e ipocrita. Sono passate poche ore da che Geltrude, la pecora smarrita, si è mostrata pentita del fallo e quindi, secondo il padre, come deduzione istantanea, si è risoluta di prendere il velo, che già accorrono nel palazzo alcuni parenti più prossimi per farle onore e per rallegrarsi con lei dei due felici avvenimenti, la recuperata salute e la spiegata vocazione. I servi, che per la verità sanno tutto, fanno ala e si inchinano, accennando di congratularsi per la guarigione. Segue l'ora della trottata e uno degli zii che l'accompagna così si rivolge a Geltrude: «Ah, furbetta, voi date un calcio a tutte queste corbellerie, siete una dirittona voi, piantate negli impicci noi poveri mondani, vi ritirate a fare una vita beata e andate in paradiso in carrozza. Al ritorno si scende in fretta. Molte viste stanno aspettando per la conversazione. La sposina, che tale ormai è l'appellativo che compete a Geltrude, ne è l'idolo, il trastullo, la vittima. Finalmente tutti se ne vanno. Geltrude si trova sola coi familiari e riceve da essi altri complimenti sui complimenti che aveva ricevuto. La mattina dopo, appena alzata, la sposina può sorbire per la prima volta una chicchera di cioccolata, il che, a quei tempi, soggiunge il Manzoni, era quel che già presso i romani il dare la veste virile. Non molto miglior trattamento ha dal Manzoni la vita conventuale e il formalismo che vi regna. Innanzitutto, i monasteri appaiono perfettamente integrati nella logica di casta della società. Geltrude non può non aspirare ad un ruolo privilegiato, quale le compete per il suo rango. Tutta la cura del padre è volta, per distoglierla dai desideri mondani, a far nascere in lei, scrive il Manzoni, quello della potenza e del dominio claustrale. Fin da piccola Geltrudina si sente ripetere: tu non sarai una monaca come le altre, perché il sangue si porta dappertutto dove si va. Non è solo il principe a nutrire questa convinzione, ma tutti coloro che ruotano intorno al centro di questa sorta di sistema planetario a distanze diverse dal sole. La governante del principino, ad esempio, che per la sua funzione si considera tra i servi uno dei pianeti più vicini, si mostra contenta della monacazione di Geltrude come di una propria fortuna. E per compiere intero il suo dovere le parla, mentre l'aiuta ad andare a letto, di certe sue zie e prozie, le quali si erano trovate ben contente d'essere monache, perché, essendo di quella casa, avevano sempre goduto i primi onori, avevano sempre saputo tenere uno zampino di fuori, e dal loro parlatorio avevano ottenuto cose che le più grandame nelle loro sale non c'erano potute arrivare. La governante del principino aveva perfettamente ragione. L'influenza dei monasteri femminili sulla società, sui palazzi e sulle stesse corti principesche esistevano davvero. Talvolta assumeva il carattere di una benefica e santa intromissione nelle preoccupazioni del secolo, da parte di religiose dotate di particolari carismi, intromissione sollecitata dagli stessi figli spirituali, donne ma anche uomini che vivevano nel mondo. Basterà ricordare per i secoli precedenti la figura delle sante vive illustrata in questa sede da Gabriella Zardi e per il Cinquecento il caso di Caterina de Ricci, studiato da Anna Scattigno. Ma si trattava allora di un riverbero della più generale visione religiosa della società e della vita, di un aspetto della presenza del sacro nella società. Su questo terreno si erano innestati, soprattutto nel Seicento, lo spirito di casta, l'onore della casata, la ricerca della protezione tipici di una società semifeudale. Questo valeva anche per le monacazioni. Caterina de Ricci si rallegrava quando qualche fanciulla veniva condotta in convento, quando cioè, come la diceva, giungeva a salvamento. Espressione questa in cui si può scorgere sia la preoccupazione per la salvezza dell'anima, sia la convinzione che lo stato matrimoniale riservasse sovente sofferenze e pericoli, sia il timore verginale per la sessualità maschile, nella linea d'altronde del vai in convento shakespeariano. Anche le monache del convento di Santa Margherita di Monza, non tutte per la verità, si erano rallegrate quando il principe, che in quella città godeva di una grandissima autorità, aveva fatto capire di destinare a quel luogo Geltrude e tanto per cominciare l'aveva collocata lì fin dai 6 anni come educanda. Ma i motivi della contentezza delle monache nel convento di Monza erano ben diversi da quelli di Caterina de Ricci. L'educazione in convento di Geltrude fornisce al Manzoni l'occasione per tratteggiare uno schizzo sulle condizioni delle educande. E cito: pochissimi lavori e lo studio del canto sopra parole di una lingua sconosciuta non erano esercizi che potessero impadronirsi della mente di Geltrude e trattenerla nel vagare in un mondo ideale. Gli esercizi corporali consistevano in un giro quotidiano dell'orto claustrale. Queste caratteristiche, per la verità, sussistevano ancora negli educandati dell'Ottocento, come si ricava dagli studi di Silvia Franchini. Non è escluso che il Manzoni, polemizzando sull'educazione fornita nei conventi femminili del Seicento, voglia parlare a nuora perché suocera intenda. Certo, è un'intenzione polemica che non si manifesta a lungo, perché il brano presente nel Fermo Lucia, risulta soppresso nei Promessi Sposi. Il contesto era indubbiamente predicatorio, ma allo storico interessa notare che il Manzoni, nella prima stesura, perché gli adolescenti potessero superare l'età critica, consigliava assoluta innocenza di pensiero, massime pratiche di religione ragionata, occupazioni utili e interessanti, esercizi frequenti e dilettevoli del corpo, confidenza rispettosa e libera nei parenti o negli educatori. Vi è qui, come si vede, l'abbozzo di un rinnovamento pedagogico, e non è un caso che fossero così stretti e cordiali i rapporti del Manzoni con gli scrittori e i pedagogisti toscani di ispirazione cattolico-liberale. Vale la pena di notare l'accenno agli esercizi frequenti e dilettevoli del corpo, un accenno che appare alquanto osé nel primo Ottocento, se si tiene conto della decisa opposizione delle autorità ecclesiastiche all'introduzione della ginnastica nelle scuole femminili, anche in quelle pubbliche, dopo l'unità, in quanto avrebbe attentato, come si diceva, al naturale pudore delle fanciulle. Quello che mi pare ancora più significativo è che il Manzoni in questo si mostra su posizioni più avanzate di Madame Campan, una aristocratica francese divenuta molto nota sotto Napoleone per la sua attività pedagogica, che offriva il modello dell'educandato laico nell'età della Restaurazione. E sono molto grato a Ilaria Porciani proprio per avermi fatto questa segnalazione. In particolare, appunto, vorrei qui ricordare come nel Trattato dell'Educazione, che è stato tradotto nello stesso 1827, che è l'anno della prima edizione dei Promessi Sposi, Madame de Campan consigliava l'insegnamento dell'arte del cucito del rammendo, insistendo sulla necessità della immobilità fisica della ragazza come mezzo per insegnar loro l'autodominio e la modestia. Nel Manzoni vi è poi il richiamo alle massime pratiche di religione ragionata, l'espressione degna di un chrétien éclairé del Settecento. E se ciò non bastasse, seguono alcune righe significative sui pregiudizi che viziavano negli educandati l'insegnamento della religione. Il formalismo di questa religione, e in particolare della vita conventuale, viene poi sottolineato quando si passa a rappresentare i momenti di verifica istituzionale della vocazione di Geltrude. Secondo le regole, le educande che intendessero prendere il velo dovevano rivolgere un anno prima una supplica al vicario delle monache di dimorare almeno un mese fuori del monastero dove era stata in educazione, tornare in convento e rivolgere una pubblica richiesta alla badessa, sottoporsi alle domande dell'esaminatore ecclesiastico che avrebbe dovuto appurare l'autenticità e libertà della vocazione, compiere un periodo di noviziato, affidarsi alle decisioni espresse con una votazione del capitolo, pronunciare i voti. Il Manzoni mostra un impegno irriverente nel far vedere come tutte queste forme istituzionali previste dalla Chiesa per garantire una libera determinazione delle vocazioni, nella vicenda di Geltrude cadano come birilli. Il messaggio è chiaro. Le regole, anche quelle venerabili, codificate dalla Riforma Tridentina, non servono a niente se ci si affida solo al loro adempimento formale e non c'è un senso profondo di rispetto per le coscienze e soprattutto per l'azione della grazia. I passaggi sono cadenzati artisticamente con degli irridenti. Era legge, c'era un'altra legge, per ubbidire alle regole, nella forma prescritta dalle regole, deve precedere la licenza dei superiori. Tra tutti questi adempimenti si inserisce il colloquio tra il principe e la badessa, che sempre secondo le regole dovrebbe appurare se c'è stata qualche costrizione del padre verso la figlia. L'imbarazzo contegnoso dei due nell'adempiere, come dice la badessa, una formalità indispensabile, dà alla scena un carattere tragicomico. Più ricca di pathos, è tutto considerato più severa, è la rappresentazione del colloquio tra Geltrude e il vicario delle monache, dove l'esaminatore appare come un buon prete che compie perfettamente il suo dovere, ma non capisce niente. Ci si può domandare, concludendo, questa rappresentazione polemica di un padre tirannico, quale accoglienza poteva avere nell'Ottocento? In altre parole, il successo che queste pagine del Manzoni riscuoteva tra i suoi 25 lettori, l'espressione è autoironica del Manzoni, esprimeva soltanto la condanna degli abusi dell'autorità paterna, o anche un nuovo modo di sentire il rapporto tra padri e figli, oltre che quello tra l'uomo e la donna? Non c'è dubbio che la risposta va vista nella prima ipotesi. Il secolo dell'affermazione della borghesia non attenua, anzi rafforza l'idea che al centro della società e della famiglia debba porsi il padre. E la ricerca della rispettabilità borghese consiglia un più severo controllo dei costumi familiari affidato all'autorità paterna, specie per quel che riguarda la sessualità delle mogli e delle figlie, anche per marcare le distanze dalla licenza degli aristocratici e dall'anarchia dei proletari. Questo non significa che nella vita quotidiana e reale di una famiglia fossero sempre i padri mariti ad avere l'ultima parola e che le madri mogli si adeguassero pacificamente ad un ruolo subalterno. Lasciando dunque impregiudicata la grande incognita storica riassunta nella domanda se nell'ambito familiare abbiano comandato di più le mogli o i mariti, resta il fatto che il dover essere il modello ideale dell'Ottocento prevedeva che il potere spettasse al padre, e questo modello aveva più probabilità di venire rispettato nei rapporti tra padri e figli che non in quello tra mogli e mariti. Una delle tante spie che possiamo utilizzare per avere conferma di questo modello è ancora una volta il melodramma. Ma la maledizione divina che colpisce chi disobbedisce ai voleri del padre è un motivo ricorrente nei libretti di Verdi, e quel che più conta, un motivo di grande successo. Oberto, Conte di San Bonifacio, è l'opera con cui Verdi debutta alla Scala il 17 novembre 1839, l'anno precedente l'edizione definitiva dei Promessi Sposi. Il libretto, ultimato da Temistocle Solera, ma ispirato dallo stesso musicista, mostra come Leonora, figlia di Oberto, finisca disonorata perché, cedendo la passione per Riccardo di Salinguerra, provoca la morte del padre. Nel Nabucco, ancora di Solera, 1842, Abigail, la perfida figlia del protagonista, non esita a congiurare contro il padre per cupidicia di potere, ma Nabucco si accorge in tempo del tradimento che lo induceva tra l'altro a mettersi contro gli dèi, si converte, secondo un modulo manzoniano riproposto in versione accelerata, e la figlia, manco a dirlo, viene colpita da un fulmine divino e spira sotto il ferreo pondo del suo delitto. Nel libretto Giovanna d'Arco, il Solera, mostra la Pulcella d'Orléans innamorata di Carlo VII, contro i voleri del cielo e del padre. Ma mentre sta per abbracciare l'amato sussurrando «Tamo, sì, tamo», ode delle voci eteree che ingiungono «Guai se terreno affetto accoglierai nel cuore». Si libera dalle braccia di Carlo ed esclama «Qual voce, Dio, il padre mio, che vuol da me?» Francesco Maria Piave non è da meno nel rappresentare colpa e castigo di chi va contro il padre. Gilda è sì sedotta dal duca di Mantova, ma un po' se lo merita, perché disobbedisce a Rigoletto, che le aveva ingiunto di partire per Verona. Invece accoglie in casa il duca, torna alla taverna di sparafucile e vi trova la morte. Nella Traviata, ancora del Piave, Violetta è colpevole, perché ama Alfredo, in un amore disapprovato dal padre di costui, che avrebbe voluto che il figlio sposasse una donna per bene e non una cortigiana. Ma Violetta, destinata alla morte dal gran male del secolo, il mal sottile, muore bene, rinuncia all'amore di Alfredo e così può volare a beati spiriti. Alla base di tutto c'è sempre, come si vede, il fallo della poveretta. Luigi Baldacci sottolinea come la librettistica verdiana sia aderente alla realtà familiare dell'Ottocento e costituisca, cito, una drammaturgia popolare borghese, cioè inerente alle situazioni reali che la famiglia italiana, in quanto istituto morale e sociale, viene a porre intorno alla metà del secolo. Che dunque potevano pensare i 25 lettori del Manzoni a proposito del padre di Geltrude? Che certo aveva esagerato, ma anche che il principio dell'autorità paterna si doveva salvare. Da questi cenni risulta chiaro che Manzoni, sul tema padre-figlia, era su posizioni più avanzate di quelle di Verdi, cosa tanto più significativa se si pensa che a rappresentare il sentire comune dell'Ottocento non era il Manzoni, ma Verdi. Questa constatazione assume un rilievo ancora maggiore se si considera che il padre appariva come l'immagine dell'autorità di Dio, e sia dell'uno che dell'altro, per reciproco influsso, l'Ottocento aveva un'immagine severa. Se il dio di Manzoni era un dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, dai pulpiti dell'Ottocento il dio che veniva predicato era molto più incline a castigare che a usare misericordia. La conclusione che si può trarre è che il Manzoni del romanzo mostra di avere una sensibilità più avanzata rispetto al suo tempo e raggiunge i momenti più alti e innovatori quando tocca gli aspetti in cui sono in gioco i diritti della coscienza. Tra questi aspetti vi sono indubbiamente le modulazioni interiori, religiose e sentimentali della vita femminile ed è per questo, mi pare, che un'indagine sulla rappresentazione della donna può offrire elementi nuovi alla comprensione del mondo. Grazie. Possiamo iniziare le pause? Forse è meglio far subito la discussione per la parte dopo. Va bene, dopo abbiamo la relazione. Va bene. Allora, forse è meglio per confrontare la sezione per i suoi confronti, meglio per Caio, anche l'altro giorno. Va bene, adesso discussione. Ma io volevo intervenire per fare una domanda sulla ricchissima relazione del professor Camaiani, anche in riferimento al Manzoni, in quanto autore caratteristico di, per una certa fascia di presenze che suscita sempre la mia curiosità, e in questo mi riferisco anche al suo intervento, professor Camaiani, di ieri sera in merito alla questione anche cristianità, per cui forse ecco il mio intervento risulta anche un po' quello che provoca i fulmini del sillabo. Ma ecco, io l'unica cosa che ho un po' studiato è un giovane prete che poi vive nel Novecento ma si forma in una cultura che è ancora quella ottocentesca ed è Angelo Giuseppe Roncalli, poi Giovanni XXIII. Ecco, un'anagrafe culturale, anche succinta o sommaria, quale io posso riuscire a fare, non annovera autori di grande attualità, autori moderni, per così dire, nel Roncalli giovane, ma registra invece una presenza costante del Manzoni, ad esempio. E questo è un dato che si ricava anche per altri chierici della fine dell'Ottocento, primi Novecento, o comunque anche precedenti. Ecco, quindi non rientra evidentemente nei programmi dei seminari, però nella scarna biblioteca di un chierico come Roncalli c'è il Manzoni, c'è spesso in funzione consolatoria, Gesù, Dio non toglie mai ai suoi figli una gioia se non per darne una più grande, ecco, rientra in questo tipo di atmosfera, tuttavia è presente. Allora, ecco, mi chiedo, qual è il ruolo giocato da Manzoni nella valutazione che, adesso non in Roncalli, ma in quella fascia che finora è stata considerata solo marginalmente, che sono appunto i chierici che si formano nell'Ottocento, questo tipo di presenza, questo tipo di lettura può aver dato. E questo me lo chiedo per un tipo di curiosità che così mi sta venendo un po' in mente in questi tempi, e cioè anche in riferimento al tema del seminario, che esiste tutta una categoria, è sempre un termine molto brutto, comunque una serie di presenze, soprattutto in campo ecclesiastico, che non vivono la stagione di una modernità, intesa appunto nel senso che grosso modo si è venuto delineando in questo seminario. Ecco, mi viene in mente Roncalli, i suoi studi, la sua presenza, questo considerare il Manzoni come autore moderno, in quanto in realtà egli resta, come molti altri, penso ad altre presenze anche più inquietanti, forse un buon aiuti, restano sospesi quasi in un limbo che non è antimoderno, cioè che non appartiene alla chiesa del sillabo, questo sicuramente, no? Non appartiene alla chiesa che demonizza il moderno, ma non è nemmeno moderno o premoderno, cioè non guarda alle aperture, ai progetti di apertura che avremo con Leone XIII, o ai progetti di cristianità che avremo poi in seguito, nel Novecento, ma che comunque datano, come il professor Camaiani ieri ben evidenziava, in una genealogia di cristianità che appunto è molto precedente, è ottocentesca. Ecco, allora questo limbo mi incuriosisce, questo limbo di estraneità al moderno. Un'estraneità al moderno che peraltro poi, represso poi dalla stagione nella stagione del modernismo evidentemente, quindi c'è anche tutta questa grossa questione a cui non posso che far cenno, un'estraneità al moderno che però poi suscita paradossalmente una disponibilità alle grandi aperture conciliari che avvengono nei giorni nostri ma che evidentemente hanno evidentemente radici molto più alte che ritengo possano datare bene in questa valutazione del moderno dell'Ottocento. Ecco, allora questa estraneità al moderno, questa premodernità, ecco. Il ruolo del Manzoni, oppure insomma, credo di essere stato molto confuso, ma Anna Scattigna, io sono fra quelli che hanno letto Manzoni alle elementari, poi alle medie, poi alle superiori, poi anche all'università con la guida magistrale di Caretti, e quindi dopo per un po' di tempo non l'ho riletto. E allora ringrazio Camaiani di questa lettura molto appassionata di Manzoni, perché veniva in mente una cosa. E che questo profilo che hai fatto del padre padrone e del rapporto padre-figlia rovescia in qualche modo quello che forse è, però non sono molto sicura, non lo posso dire con gran certezza, ma forse è un topos di certa letteratura agiografica sulla monaca santa. In particolare tu hai citato Caterina De Ricci e per esempio nella vita di Caterina De Ricci scritta nel 1591 il padre è invece colui che ostacola la vocazione per eccessivo amore, colui che vorrebbe trattenere la figlia presso di sé forse per usarla in altro modo, e cioè nella politica delle alleanze fra gruppi familiari, e quindi rende più eroica o più meritoria o comunque più sofferta una vocazione e poi una futura conversatio religiosa. Potrebbe apparire un topos, ma d'altra parte l'epistolario di Caterina De Ricci conferma invece questi aspetti, cioè nel senso che più volte Caterina De Ricci si trova a dover convincere i suoi potenti amici e protettori, per esempio Filippo Salviati, sulla opportunità di permettere alle figlie di entrare in convento e di non contrastare una vocazione. E, d'altra parte, quello che mi pare che sia avvenuto insomma fra 5 e 600 insomma, è questa rottura molto forte fra cioè una profonda trasformazione all'interno della famiglia e anche una rottura fra convento e famiglia. E da qui poi un altro aspetto, ora c'erano delle cose che sono le cose su cui poi lavora Gabriella Zarri e quindi poi lei meglio di me insomma, ma anche recentemente in un incontro abbiamo fatto a Catania dove lei parlava della cultura conventuale e della decadenza della cultura all'interno dei monasteri femminili, l'elemento che poi veniva come centrale accanto a questo elemento che Manzoni e tu con lui hai sottolineato, e che è quello della coazione e quello della monacazione forzata, padre figlia, però l'altro elemento poi invece rilevantissimo è quello della clausura e della riorganizzazione della vita all'interno del convento. E diceva appunto Gabriella, un iter di formazione culturale della monaca che a questo punto è tutto interno al convento, con conseguenze poi molto, molto forti. E siccome io non ricordo più poi molto bene Manzoni, insomma, e se Manzoni coglie anche questi aspetti relativi alla clausura e all'organizzazione della vita conventuale. Sì, solo una parola, intanto per ringraziare il professor Camaiani di aver ricordato questo mio intervento, poi del tutto occasionale sul saggio comparativo. Ecco, e poi per rilevare un dato, cioè questo tipo di lettura che offre Camaiani è effettivamente in chiave un attimo con quella che io offrivo poi di questo saggio più tardi sulla Rivoluzione Francese, cioè un tentativo di prendere sul serio Manzoni come storico. Ecco, come la rivoluzione non è il paradigma di una dissoluzione, comunque non è necessariamente il paradigma di una dissoluzione psicologica, spirituale, di una crisi esistenziale dell'ultimo Manzoni, così anche il romanzo può non essere il paradigma di una condizione umana, no? Che lui ha voluto raffigurare in questa maniera, ma una realtà, effettivamente un'immagine concreta, ecco, di una determinata epoca. Ecco, alle osservazioni di Camaiani vorrei aggiungere, anche se mi rendo conto della delicatezza dell'argomento in questa sede, un'altra osservazione, cioè che un dato che risalta con forza enorme da Promessi Sposi è che si tratta di una società senza Stato, cioè è una società di puri corpi, insomma, no? Questo Seicento dove lo Stato è completamente assente, come d'altra parte notava assai bene Camaiani, l'individuo si aspetta protezione, difesa, eccetera, soltanto da, ecco, questa serie di strutture intermedie. Questa assenza poi può essere viene spiegata spesso dalla critica osservando che Manzoni è cattolico e quindi non, per definizione non dovrebbe avere, perlomeno da certa critica, non ha una sensibilità specifica nei confronti del problema dello Stato, e quindi lo Stato esiste ma lui non lo vede, lui non lo trascrive. Ecco, se invece vi è da parte nostra una disponibilità a dar credito a Manzoni come storico, come vero storico dell'età moderna, ecco, questa potrebbe essere un'osservazione importante da registrare, cioè la cultura storiografica dell'Ottocento vede effettivamente il Seicento come una società dove l'elemento del pubblico, ecco, è scarsamente presente. Il tema di queste relazioni spiegare anche così gli inesperti, i profani, eccetera, quindi anche se appunto poi magari sono discorsi che continueranno più dopo la discussione, credo che non possano svilupparsi adesso nella discussione. Rimando a me prima semplicemente dire questo, che tu all'inizio hai impostato la visione del cristianesimo civilizzatore, no? Cioè, questo è un'espressione che hai usato più volte e sei ritornato. Poi invece, secondo me, nel corso poi della tua tesi, esposizione, hai lasciato un po' in ombra questo aspetto, interessandosi invece della decadenza, dell'aspetto, diciamo così, di controriforma in senso specifico. Io appunto penso che si potrebbe continuare un po' la tua esposizione, dopo aver parlato della monarchia di Monza, per cercare invece di cogliere quali sono i motivi che nel Seicento, in fondo, Manzoni crede o pensa di individuare come elementi di questo tipo di cristianizzazione, di una società che, in fondo, in tutta questa decadenza, per lui voleva nascere, ecco, cioè la coscienza, come dicevi tu, la laicità, nel senso che i due protagonisti spirituali, centrali, sono quei due laici, insomma, che nel loro affetto, insomma, trovano la completezza umana, il problema del lavoro, che mi pare centrale, cioè tutti quegli impedimenti che ti dicevi, insomma, in fondo, però Manzoni vede che gli unici che possono salvarsi in qualche modo sono che loro, che appunto nella tessitura, nel lavoro quotidiano e via dicendo, insomma, così pure l'analisi pure di questa figura del cardinale che Federico e Carlo messi insieme, tutto questo, cioè, questo tipo appunto di tendenziale distacco della Chiesa dallo Stato, insomma, sia pure in tempo. Cioè, io voglio dire che appunto, parallelo a quello che hai detto, probabilmente si può continuare un'analisi più sul moderno in qualche modo che non sulla contrapposizione tra Manzoni e Seicento come viene fuori dal quadro. Vorrei proseguire direttamente su questo, dopo ti do subitissimo brevemente la parola. Cioè io appunto non voglio, cancello completamente quegli irritanti ricordi fanciulleschi e adolescenziali appunto che ho del Manzoni e mi baso quindi esclusivamente sulla sensazione che ho ricavato dalla tua relazione e in maniera molto schematica vorrei chiederti se è corretto interpretare così quello che tu hai detto. Tu dai giustamente alla fine, direi, una patente di modernità a Manzoni, addirittura privilegiandolo rispetto al eroe della modernità ottocentesca italiana, che è Verdi, insomma, da questo punto di vista, insistendo sul fatto che la modernità di Manzoni sta riposa esattamente nella individuazione, nell'aver saputo cogliere l'importanza dei diritti della coscienza, no? Che poi è un modo sintetico, mi pare, per dire quello che poi Prodi adesso ha ulteriormente chiarito e su cui effettivamente sarebbe bello discutere, cioè i momenti della coscienza, della città, del lavoro, che sono tutti effettivamente momenti, diciamo così, che hanno a che fare proprio con la dimensione individuale. È troppo forzato dire che proprio per evidenziare per questa sua scelta, no? Questa sua opzione così moderna, il Manzoni ha dovuto falsare così violentemente la storia del 600, e quindi io non sono affatto d'accordo che si possa considerare, che si possa leggere I Promessi Sposi come un libro di storiografia. Carlo Ossola, la mia è intanto una dichiarazione di sollievo da letterato, perché i nostri testi fruttificano così bene nelle mani degli storici che vien voglia appunto di lasciarli a loro miglior fortuna, perché Manzoni non gode appunto di grande fortuna. D'altro lato, ecco, allora così rovesciando un po' le parti per gioco, mi pare che si potrebbe anche prendere la tua relazione proprio dall'inizio, quando hai osservato che uno dei capitoli più importanti in effetti per delineare questo rapporto Rodrigo-Lucia è proprio l'inizio, cioè l'ingresso nella filanda, ma è un inizio che il Manzoni, proprio per la sua formazione di alto intellettuale dei lumi europei, immediatamente abbandona. Lucia è una operaia che non lo sarà mai in tutto il romanzo. Non solo, ma è vero che Manzoni compie un'opera titanica, perché è il primo romanzo della letteratura italiana, pensiamo all'eredità settecentesca del romanzo libertino, insomma, quello che Manzoni aveva davanti come modelli poteva essere o Casanova o Chiari. Ecco, tanto per dare dei rapporti, per dire quanto è stato titanico il suo sforzo di ammodernamento, nel porre in campo poi sono anche i primi due operai della letteratura italiana. Tuttavia sono operai fuori contesto, cioè soltanto alla fine, poi così vagamente, nel momento in cui espatriano oltre l'Adda, così intravedono filande, qualche discorso economico e così via. Per converso, ecco, io vorrei domandare, accentuando ancora alcuni dati che ha appena così toccato Paolo Prodi, se, ma io non ho dati storici e quindi sono questi che chiedo a Camaiani, se invece dietro non ci sia anche la preoccupazione che si vede in maniera poi così plateale in operette di migliore diffusione, di rapida diffusione della fine degli anni 30, cioè la trilogia di Cantù, il primo Cantù, il Giovinetto e il Carlambrogio da Montevecchia, eccetera, cioè di sovvenire a una realtà che invece sta sfuggendo a questo rapporto privilegiato padre o paternità, insomma al controllo della famiglia, e cioè che le donne e i bambini sono la prima grande manodopera irregimentata per l'appunto nelle filande, e che queste non si controllano più o che bisognerebbe in qualche modo controllarle. E lì non ci sono risposte per lungo tratto nella letteratura italiana, se non alla fine dell'Ottocento, comunque negli anni 70 dell'Ottocento, e se non per esempio paradossalmente in certe poesie cosiddette semiserie di Pusinato, il quale dice, ecco, per dire qual era un po' il rapporto, do due esempi veneti, insomma. Pusinato è l'avvisatore domestico di Don Bailo a Treviso, anni 70. Da un lato, dice Fusinato, sì, arriva, adesso siamo tutti uguali, e con una rima che è una rima alla francese, anche le donne mettono il gilet. Però, dice, cosa serve questo gilet? Serve a avere il carnet della cucina. Per mettere in rima gilet e carnet, ed è però quello della cucina. Mentre le loro, come dire, consorelle settecentesche avevano ancora il bassamano e venivano accompagnate fino a casa. Una battuta, però ci sono degli elementi di questo. E soprattutto questo avvisatore domestico di Treviso paragona il prezzo della donna e del mulo nel trasporto dei pesi in queste valli non ancora servite da strade, constatando che il prezzo orario della donna è infinitamente più basso, cioè più economica ancora che il mulo, e cioè c'è una economia domestica che non è quella che abbiamo appreso nei libri di scuola, se non molto tardi, alla fine dell'Ottocento, quando cominceranno a tradurre i libri inglesi Alessandro Rossi ed altri, ma è un'economia che si va coagulando, insomma, a detrimento e dell'immagine, non solo letteraria, e anche, come dire, dell'eredità simbolica del rapporto con la donna. La parità è, come dire, pagata almeno in quel tratto di epoca abbastanza tale. Allora mi domando se nello stesso tempo lo sforzo dal punto di vista letterario del Manzoni sia stato veramente titanico, e lì è tra l'altro anche rimasto l'unico romanzo poi a diffusione europea della letteratura italiana fino a Pirandello. E d'altro lato, se però questo non sia anche in un certo senso, dal punto di vista però della storia, questa domanda devo farti, un'occasione perduta, cioè per una volta che un'operaia entra nel romanzo, esce però immediatamente dalla filanda, quasi per non più rientrare. Allora, provo a rispondere premettendo però che sono cosciente di non riuscire a rispondere ai problemi, a tutti i problemi che sono stati posti. Oltretutto molti interventi sono piuttosto delle integrazioni e delle sollecitazioni a allargare il discorso. Credo che anche su così, con prospettive così larghe che certamente non è possibile esaurirle in poche battute ora. Ecco, io vorrei soltanto toccare qualche punto in quella e partendo da Trinchese, che è stato il primo, trovo che è molto interessante questo ricordo che lui ha fatto del rapporto tra Roncalli e Manzoni, che può essere considerato un po' emblematico di un certo tipo di rapporto tra un clero illuminato, ma non rivoluzionario certo, illuminato direi, e il Manzoni. Ecco, qui bisognerebbe, ci sarebbe motivo per fare un'altra relazione tra la fortuna o la sfortuna del Manzoni in generale, ma in particolare nel mondo cattolico, in particolare anche nel mondo ecclesiastico. Sappiamo tutti che Manzoni, l'ho accennato anche all'inizio, nell'introduzione, è stato dal mondo cattolico ufficiale, particolarmente dalle riviste cattoliche, dalla Civiltà Cattolica. C'è chi, qualcuno mi pare che ha studiato in particolare l'atteggiamento della Civiltà Cattolica nei confronti del Manzoni. Ecco, è stato fortemente osteggiato. Ha ragione, direi, perché dal punto di vista dei cattolici intransigenti Manzoni rappresentava effettivamente una grossa provocazione. Ecco. E io ritengo che abbiamo perso il senso di questa provocazione proprio grazie poi all'adozione del Manzoni con tutti gli onori da parte del mondo cattolico e da parte, diciamo così, della cultura scolastica. In realtà il Manzoni era molto più eversivo di quello che non lo possiamo percepire noi oggi, quando apparve nei primi dell'Ottocento. Ecco, poi è evidente che un po' alla volta è filtrato anche nel mondo cattolico, però appunto è filtrato in termini che, come ha detto molto bene Trinchese, l'hanno un po' sospeso come in un limbo. Mi viene in mente quanto ha scritto molto bene Arturo Carlo Jemolo in un volumetto pubblicato una decina di anni fa, intitolato Il dramma del Manzoni, in cui sottolinea proprio come il Manzoni in qualche modo abbia avuto un successo ambiguo, perché ha avuto un successo nella misura in cui in parte è stato travisato e direi anche svirilizzato, ecco, perché a un certo punto il mondo cattolico l'ha accettato proprio nella misura in cui poteva sembrare utile ad una generica apologetica del cristianesimo, ma non più così mordente per certi aspetti della vita ecclesiastica. Ed è un motivo in cui, direi, specularmente, poi spesso il mondo laico ha finito per rifiutare Manzoni, perché lo vedeva essenzialmente come propagandista cattolico, ecco, o addirittura propagandista della rassegnazione. E in questo poi è significativo il giudizio che il Carducci dette proprio al momento della morte del Manzoni nel 1873. Ecco, allora direi rimane sospeso come un limbo, per riprendere l'affermazione, l'espressione di Trinchese, perché in qualche modo lo si accetta ormai, perché è stato consacrato e accettato anche nel mondo cattolico, ma cercando molto di ovattare la sua pericolosità o le sue provocazioni. E questo è il motivo per cui anche nel momento peggiore, perché riguarda le tendenze riformatrici cattoliche, cioè il momento della repressione antimodernista, Manzoni non è che si può reprimere o mettere all'indice, evidentemente. E allora evidentemente viene accettato più possibile nelle forme che così possono essere accettabili in un seminario del periodo della repressione al modernismo, in forme molto edulcorate. Sta di fatto però che Manzoni rimane nel libro, rimane nelle biblioteche dei seminari, anche nei momenti peggiori, e quindi può essere letto da questi giovani seminaristi, che sono in un clima plumbeo, però alla fine nel Manzoni possono trovare più di quello che ufficialmente non si dica. Ecco. Quindi io credo che in fondo Roncalli, questo però è tutto da studiare in fondo, no? Qui bisognerebbe forse chiedere qualcosa a Maurilio Guasco, che ha studiato i seminari, no? Ecco, io non sono la persona più adatta a rispondere a questa domanda, la trovo molto stimolante. Io penso che si potrebbe cercare di vedere come in fondo, se ci fossero, che so io, documenti nei diari, documenti anche negli epistolari di questi giovani preti, come in fondo leggessero il Manzoni scoprendo più di quello che ufficialmente non si diceva del Manzoni. Perché non c'è dubbio che se uno non è proprio completamente ottuso, un prete come Roncalli, che certo non era un mostro di cultura, ma certamente aveva una grande sensibilità umana e spirituale, ed era molto aperto, come si vedrà poi quando esplode come pontefice, molto aperto ai problemi della coscienza, ecco, non poteva non cogliere tutti gli stimoli che potevano venire dal Manzoni e gli elementi critici che dava al mondo ecclesiastico in particolare. Ecco, questo. Per il che riguarda Anna Scattigno, ecco, è giusto ricordare che il problema del padre nel 500, nel 600, si pone non soltanto perché ostacola, non soltanto perché favorisce e costringe alla monacazione forzata, ma anche talvolta perché ostacola la vocazione, caso di Caterina. È significativo anche che il Concilio di Trento, negli stessi canoni in cui aveva condannato le monacazioni forzate, condanna nel contempo gli ostacoli, i padri, i genitori che ostacolano le vocazioni. Questo si ritrova molto spesso anche in tutti i trattati del tempo che riprendono e commentano questi concili. Ecco. Sì, hai ragione. E pertanto appunto credo che da questo punto di vista è interessante allargare il discorso, anche se evidentemente non faceva parte questo discorso dell'economia del Manzoni. Ecco. Perché che riguarda Mannori, ecco, io credo che non ho niente da dire su quello che lui ci ha detto, lo ringrazio soprattutto per l'allargamento del discorso e per il contributo che ha dato. Ecco, Paolo Prodi ha ricordato come nella rappresentazione del Seicento, nonostante tutto, ci siano degli elementi che fanno intravedere anche il moderno che filtra, questo è vero, ecco. E io vorrei sottolineare questo, tra le molte cose che ha detto, il discorso sulla laicità, su questa coppia di protagonisti laici. Ecco, io non so, io sono ben lungi dall'aver letto tutta la letteratura manzoniana, perché è sterminata, quindi non la leggerò mai tutta, e quindi non so se questo discorso è già stato fatto, però certamente non è senza significato che alla fine gli eroi di questo romanzo sono non soltanto gente di picciol al fare, per usare un'espressione dello stesso Manzoni, gente umile, e questo va bene, questo è stato notato da tutti, ma gente poi alla fine che non ha affatto un finale eroico, perché il finale a lieto fine sta nel fatto che questi due finalmente si possono sposare, questo va bene, ma poi alla fine cosa fanno? C'è un finale quanto mai antieroico nel romanzo, no? E starei per dire un finale laico, cioè questi due, che sono due modeste persone, finiscono finalmente per sposarsi e vivere una vita banalissima e normale del quotidiano, no? Eppure questo in fondo viene proposto come modello, no? E questo è molto interessante in fondo, no? E questo mi pare tipicamente una specie di esaltazione della laicità a suo modo, no? Cioè la laicità vista nella importanza della vita quotidiana dell'uomo qualunque, starei per dire, no? Ecco, penso che tu volevi dire questo, naturalmente volevi dire anche altre cose che potrebbero essere sviluppate poi dopo. Ecco, a schiera direi questo, che certo la rappresentazione del Seicento così nera è funzionale appunto a una proposta di modernità, ecco, particolarmente perché che riguarda i diritti della coscienza. Non c'è dubbio. Ecco, tu però usi il termine falsare la storia del Seicento, che mi sembra un po' forte, io non mi sentirei di condividerlo. Ecco, no, nello stesso momento dico, non certo come storico, non accetterei così a scatola chiusa, non prenderei per buona la rappresentazione che il Manzoni mi dà del Seicento, se questo che vuoi dire sono perfettamente d'accordo. Ecco, però appunto questo che a noi interessa, proprio perché, come ho cercato di dire nell'introduzione, a noi interessa vedere e anche storicizzare il Manzoni e vedere come lui cercava di vedere l'uomo dell'Ottocento, cercava di vedere il Seicento, ecco, questo ci serve a far capire come era funzionale, no, a un certo discorso preciso che si faceva nell'Ottocento, rappresentare in quei termini il Seicento, questo non c'è dubbio, ecco. E anche a Ossola posso dire soltanto che lo ringrazio per il contributo, è interessante molto il discorso che fa su Lucia, che appare come operaio della finale soltanto all'inizio e poi non lo è più, ecco, e qui probabilmente c'è proprio la mancanza nel Manzoni forse di una sensibilità per questo mondo, ecco, che come? Anche la mancanza di esperienza. Certo, certo, certo. Va bene, io vi ringrazio tutti, scusate per la... No, no,